ho deciso così, voglio stare da solo un po'. Scusami sai, soffro anch'io come te, ma è davvero più forte di me. Se tu lo vuoi, un amico sincero sarò, forse di più, di un amico di più, ma non chiedermi cosa farò. Chissà se domani cambierà la mia vita, chissà se la vinco questa nuova partita, lontano dal mondo che avevamo inventato, un mondo che adesso sembra tutto sbagliato. Chissà se domani nascondendo la malinconia.